24 mattino con Irene Zerbini. È 29 dicembre, martedì, buona giornata. In primo piano oggi Al-Qaeda, guerra all'Occidente, Obama, vi colpiremo ovunque. Questi i titoli dei notiziari. Al-Qaeda con un messaggio audio ha rivendicato il rapimento della coppia italiana, Sergio Cicala e la moglie Philomène Kabouri, scomparsa 10 giorni fa in Mauritania, il sequestro contro i crimini compiuti dal governo italiano in Afghanistan e nell'Iraq. È questa la rivendicazione. Ci spostiamo in Iran, la situazione resta tesa. Ieri ancora violenti scontri nel centro di Teheran con la polizia che ha sparato lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Negli scontri di domenica, lo ricordiamo, sono morte almeno 15 persone. E in Italia il sindaco di Milano Letizia Moratti ha dato l'incarico ai suoi collaboratori di identificare un punto di Milano, una strada o un giardino, da intitolare a Bettino Craxi in occasione del decennale della morte il 19 gennaio 2010 dell'ex segretario socialista. I giovani sempre più casalinghi, sembra sia sempre più difficile lasciare la famiglia d'origine, e quando lo fanno è solo perché decidono di sposarsi, proprio come accadeva 50 anni fa. A rivelarlo è un'indagine dell'Istat. Infine lo sport, Bettega si presenta: voglio dare il mio contributo affinché la macchina riprenda a girare. Per me il calcio è la Juventus, non vedo e non conosco alternative. E noi tra pochissimo ci ritroveremo sul sondaggio di bianco o nero. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. E ancora buongiorno dunque, all'indomani della tragedia, stiamo parlando della tragedia in montagna, arriva lo sfogo del capo della protezione civile, Guido Bertolaso, che dice: sono stanco di vedere morire i nostri ragazzi per gli errori altrui. Riferimento è naturalmente ai soccorritori che hanno perso la vita nel tentativo di trarre d'impaccio o almeno recuperare i corpi dei turisti che erano stati seppelliti da una slavina. Per la gente che ignora gli allarmi, in sostanza, dice Bertolaso, si perdono vita. A questo punto cosa serve? Una patente per la montagna? O vietare tutti gli sport a rischio? È la domanda del sondaggio di bianco o nero di oggi. A questo punto il 63% di chi ha partecipato è a favore del divieto, il 36% dice no. Anche perché forse il rischio è connaturato all'essere umano, forse è impossibile trovare un espediente legislativo che lo arresti. Di questo discuteremo con i nostri ospiti. Intanto saluto Henry De Luca, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Scrittore, alpinista, in libreria in questo momento con Il peso della farfalla. Pietro Crivellaro, giornalista e storico dell'alpinismo, buongiorno Pietro. Buongiorno anche a voi. E saluto Valerio Zani. Valerio Zani è il vicepresidente nazionale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e oggi prenderà parte ai funerali di quelli che hanno perso la vita. Zani, vorrei cominciare da lei. Dunque, conosceva questi giovani? Sì, buongiorno a tutti. Conoscevo questi ragazzi, conoscevo quello che facevano, sapevo cosa erano nella loro realtà di Canazei, nella loro realtà della Val di Fascia. E qualche giorno fa è partito da Ponte di Legno, da dove lei proviene, proprio per seguire le operazioni di soccorso. In questi giorni qualcuno ha detto: bisognerebbe negarli i soccorsi a chi si assume dei rischi eccessivi, oppure far pagare in qualche modo le operazioni, oppure negare proprio la possibilità di salvataggio per chi non abbia rispettato l'allarme. Le sembra una strada percorribile? Sono indubbiamente parole molto forti, dettate chiaro da quella che è l'emozione provocata da questa tragedia, ma di fatto il fatto di essere dei soccorritori non può vietare il soccorso a un certo tipo di persone, assolutamente no. Non possiamo partire con l'idea di soccorrere qualcuno e non soccorrere altri, questo assolutamente no. Cioè, il nostro compito di soccorritore prescinde da chi e da cosa è successo, ma di fatto rimaniamo persone che devono intervenire ogni volta che arriva una chiamata. Questo ovviamente non deve vietare, non deve impedire di lavorare su quello che è il concetto della prevenzione, su quello che è il concetto del muoversi con criterio, questo assolutamente sì. Certo, non si può pensare di incoraggiare individui imprudenti o spericolati o senza regole, comunque, e anche qualcuno dei soccorritori che abbiamo sentito ieri ci ha detto impossibile moralmente per un soccorritore mettersi a giudicare il perché di un comportamento o il perché di una persona si trova in stato di necessità. E ora vorrei chiedere a Henry De Luca, scrittore ma anche provetto alpinista, la irritano queste polemiche dopo episodi come questo? No, mi dispiace che ogni volta che c'è qualcuno che muore in montagna che si dà la colpa al fatto che è uno sprovveduto, che non è attrezzato, che è inesperto, eccetera. Non è vero. Si va in montagna, quelli che muoiono in montagna sono molto spesso delle persone esperte, pratiche, ben attrezzate e consce della difficoltà e del pericolo che stanno affrontando. Insomma, non c'è nessuna attrezzatura tecnica e nessuna competenza che garantisce l'incolumità a chi va in montagna. È un rischio che si affronta, la montagna è semplicemente un posto pericoloso e gli incidenti avvengono, e sempre di più ne avvengono, perché è moltiplicato il numero di quelli che amano la montagna. E anche dire che sono turisti, ma allora siamo tutti turisti, insomma, sulla faccia della terra, siamo semplicemente delle persone che amano andare in montagna, ci riescono ad andare magari la domenica perché è l'unico giorno libero che hanno. Henry De Luca, lei è iscritto al CAI? Sì, sì, sempre. Sa perché glielo chiedo? Perché ovviamente all'indomani di episodi come questo sono moltissime le parole che si incrociano cariche d'emozione, però ci sono anche dei fatti, dei numeri in questa statistica senza dubbio triste, ma che inchiodano a certe realtà. Ora, tra tutti gli interventi del soccorso alpino nel 2006, l'ultimo anno registrato di cui è disponibile la statistica, solo il 5,5% ha riguardato soccorsi a persone iscritte al CAI. È un segno che chi conosce la montagna è meno imprudente, secondo lei? Ma no, l'iscrizione al CAI è puramente volontaria e certamente, insomma, la gran parte dei praticanti che vanno in montagna non sono iscritti al CAI. Io ci sono iscritto perché era iscritto mio padre, insomma, è un sodalizio che mi è simpatico, mi è caro, ma insomma non ha nessuna patente di competenza. Di maggiore competenza, lei dice. E a questo punto, Pietro Crivellaro, lei è uno storico dell'alpinismo. Ha sentito a sua volta Guido Bertolaso additare le responsabilità di chi non prende sul serio gli allarmi. E le sembra certo che... È certo comprensibile. Buongiorno. Buongiorno, certo. In un momento così di dolore di fronte a disgrazie di questo genere. Tuttavia è proprio una perfetta illusione credere che raccomandazioni alla prudenza o deplorare, sono d'accordo con Henry De Luca, fisiologicamente fa parte della pratica dell'alpinismo il rischio. E anche l'esercizio della prudenza, perché chi pratica la montagna sa bene che può bastare un errore per giocarsi la vita, e certo è come una condanna, un'arma a doppio taglio, l'alpinismo. Da un lato c'è l'aspetto positivo, affascinante, romantico, quello che viene anche applaudito dal pubblico, e dall'altro c'è questa insensatezza che possiamo chiamare follia, per cui da un lato c'è l'eroismo, lo stesso eroismo degli soccorritori che sono partiti alle 7 di sera senza stare lì a dire se o ma, perché spinti da un senso del dovere che però è nello stesso tempo un senso di comunanza con gli alpinisti che, come sottolineava Harry, non sono turisti, è stato scritto dai giornali turisti con una sì, quasi con un segno di disprezzo, quasi, sì. Pronto? Sì, quasi con un segno con una valenza di, ecco. Di disprezzo, non erano ecco. Turisti in questo poi, caso le due persone che hanno perso la vita, ma erano alpinisti provetti, ecco, sì, forse quindi, quel giorno hanno sottovalutato i rischi di questa neve certo, fresca. Perché poi io invece non sono d'accordo con Harry sul fatto che spesso gli incidenti sono frutto di errori. L'alpinista deve sapere che quando ci sono degli incidenti, anche questo, sono state dette anche a proposito degli eroici soccorritori, che qualche errore è stato compiuto, perché purtroppo è stato originato dallo slancio della generosità. Crivellaro, la fermo un attimo perché con noi appunto c'è Valerio Zani e si trovava in quel momento proprio nella zona in cui si seguivano le operazioni di soccorso di persone che fanno parte della sua comunità, cioè soccorritori alpini, ma addirittura di amici. E dunque Zani ha sentito cosa è stato detto in questo momento e cosa è stato scritto. Cos'è accaduto quella sera? Una fatalità? Beh, quella sera è arrivato un allarme. Quella sera è arrivata una richiesta di soccorso in un orario effettivamente un po' particolare, dove ormai il buio la faceva da padrone. È stata fatta una valutazione oggettiva da parte delle squadre prima di partire, prima di dare inizio alle operazioni di soccorso. Questa valutazione ha prodotto diciamo la partenza delle squadre stesse, per cui l'ha prodotta a seguito di una valutazione. Purtroppo sappiamo che le valutazioni, anche di tipo oggettivo, non possono prescindere da situazioni imprevedibili o da situazioni che sfuggono all'analisi oggettiva. Certo è che queste persone... Cioè, di quale valutazione sta parlando? Perché qualcuno ha invocato in questi giorni la valutazione sul comportamento di chi si va a soccorrere, no? Lei invece sta menzionando una valutazione completamente diversa, cioè sulle condizioni in quel momento, esatto, nel canalone. Esatto, sì. Attenzione, la nostra valutazione non è mai una valutazione fatta sulle intenzioni delle persone che andiamo a soccorrere. O sulla competenza. Esatto, sulla competenza, ma bensì è una valutazione di tipo tecnico, è una valutazione di tipo oggettivo che deve tenere conto di quelli che sono le variabili che in quel momento sono in gioco, per cui le condizioni meteo, le condizioni ambientali, le condizioni di sicurezza delle squadre stesse. Poi non dimentichiamo, come dicevano anche gli altri ospiti, che l'alpinismo e di conseguenza anche il soccorso alpino implica dei rischi, implica delle situazioni pericolose che purtroppo non sempre possono essere diciamo tolte di torno, ma che fanno parte dell'andare proprio a fare soccorso in determinate condizioni. Lei ha parlato della valutazione in quel momento, quando sono partiti i suoi colleghi, sapevano che i due, nemmeno turisti, sono stati definiti addirittura con una valenza di disprezzo forse maggiore, gitanti, che i due gitanti, o che insomma che le due persone a soccorrere avevano già perso la vita, o c'era la speranza di ritrovarli in vita? Fino a quando non si raggiunge fisicamente la persona o le persone, fino a quando non si fa una valutazione della salute di questa persona, per noi sono persone vive e sono persone che necessitano di un soccorso d'emergenza e d'urgenza, per cui assolutamente non si parte mai con l'idea di dire tanto andiamo a recuperare delle persone che hanno perso la vita, anzi al contrario, il soccorso è celere proprio perché si spera sino all'ultimo di riuscire a salvare la vita di queste persone. E quindi mai avreste potuto dire aspettiamo, le condizioni non sono tali da consentirci oggi un salvataggio in sicurezza per noi, aspettiamo la luce, aspettiamo domani? A priori non possiamo dirlo perché non possiamo sapere quali sono le condizioni di queste persone e in quel momento la valutazione che è stata fatta era una valutazione che consentiva alle squadre di potersi muovere, è stato scelto un itinerario di un certo tipo, sono state fatte valutazioni tecniche di un certo tipo, purtroppo ahimè è intervenuto un fattore esterno che non era valutabile in quel momento, che ha provocato una valanga di dimensioni assolutamente gigantesche che di fatto ha provocato la morte delle quattro persone e anche il coinvolgimento delle altre tre, perché non dimentichiamo che altre tre persone sono state comunque coinvolte da questa valanga, fortunatamente sono riuscite sopravvissute. Io Valerio Zani la ringrazio perché so sta vivendo giornate e ore difficili alla Camera Ardente in questi giorni dei suoi colleghi, e ha accettato questa intervista proprio per far chiarezza, anche per spazzare alcuni degli equivoci che in questi giorni sono stati disseminati da, soprattutto anche da noi giornalisti. Valerio Zani con noi fino alla fine della trasmissione, così come Harry De Luca, scrittore e in questo caso oggi alpinista, e Pietro Crivellaro, giornalista e storico dell'alpinismo. Sono benvenute anche le vostre considerazioni all'800 24 00 24, questo è il numero verde da chiamare se avete un contributo da aggiungere a quanto noi già stiamo dicendo, inviare un sms al 349 238 6666. Ci sentiamo tra pochissimo. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Ed è un sondaggio che rimarrà attivo fino alle 13 di oggi, dunque tutti potete partecipare sul sito www.radio24.it oppure www.ilsole24ore.com. Al microfono Irene Zerbini e con me Pietro Crivellaro, Harry De Luca e Valerio Zani. Ci ha raggiunto anche un ascoltatore che vuole portare un'esperienza interessante dall'estero, anche se lui ci chiama da Pavia, si chiama Stefano. Buongiorno Stefano. Buongiorno a tutti. Dica. Sì, io volevo dire semplicemente questo, che in Amazzonia, quando uno supera un certo punto della strada, la Polizia Federale mette dei cartelli e a volte ci sono dei posti di blocco nei quali comunica espressamente che oltre quel punto non vengono a cercarti, cioè la zona è talmente inesplorata, è talmente sconosciuta, il rischio è molto elevato per molte tribù che appunto esistono, che quindi loro non si assumono nessuna responsabilità, cioè uno ha dei problemi, non chiamare perché io non vengo a cercarti. Perché e la gente procede di... in genere? C'è qualcuno gente, che procede comunque no, o si ferma davanti al cartello? C'è qualcuno che ha le guide e le guide sanno fin dove andare avanti ancora un pezzettino, oppure hanno delle tribù che sono ormai diciamo addomesticate e quindi li portano lì per fare tipo visita turistica e souvenir, queste cose qua, però si addentrano pochissimo. Proprio nella zona sconosciuta e senza guide non ci va praticamente nessuno, solo i pazzi ci vanno. Insomma, lei sta invocando così l'emulazione di questo principio del a tuo rischio e a pericolo. Harry De Luca, ha sentito? Pronto? Sì, lo sento. E, chiaramente sono situazioni completamente diverse, le persone di cui stiamo parlando non si erano avventurate in zone sconosciute, era la condizione della neve che era particolarmente cedevole quel giorno. Sì, certamente. Sì, le disgrazie ci stanno e, come diceva anche Pietro, esistono anche i nostri errori, ma noi ne abbiamo commessi, noi praticanti di alpinismo, insomma, ne commettiamo continuamente, non solo errori di fatto, ma anche errori di valutazione, valutazioni approssimate, sbagliate, e noi siamo qui a parlarne semplicemente perché abbiamo avuto più fortuna degli altri, ma questo è tutto, tutta la nostra competenza oggi a parlarne è perché abbiamo avuto molte volte più fortuna delle persone che ci sono rimaste sotto e che continueranno a rimanere sotto, insomma, queste valanghe, queste disgrazie, questi incidenti. Senta Harry De Luca, insisto che non c'è nessuna, non si può mettere il preservativo alla montagna, insomma. Ecco, Harry De Luca, lei ha parlato di preservativo, c'è chi ha parlato di patente. Allora diamo una patente a chi può avventurarsi su certi sentieri, a chi può fare certe escursioni. È stato uno dei tentativi in passato, così un'ipotesi, per regolamentare e ridurre decessi e tragedie. Come la valuta? Ma no, ma sono impossibile. È come mettere è come mettere i cartelli, insomma, come mettere gli sbarramenti a dire tu sì e tu no, insomma. La montagna per fortuna fino adesso, insomma, è un posto libero che si è scrollato di dosso tutti questi impedimenti e tutte quelle cose che sono tutti i sensi unici e gli sbarramenti che ci sono in città e nella nostra circolazione quotidiana. Però è un posto libero. C'è chi dice rischiate la vita, benissimo, certo. Ma rischiate la vostra, e in questo caso invece si sa che a rischio la vita anche dei soccorritori. Lei cosa si sentirebbe di dire oggi alle famiglie di chi era legato a questi soccorritori? Ma il soccorritore è un mestiere, è una vocazione, è un servizio di per gli altri, ma altruista, ma è un servizio pericoloso, è un mestiere pericoloso, dannatamente pericoloso, e ci sono delle condizioni, per esempio, con i quali, durante le quali il soccorso non è proprio praticato, non è possibile proprio, quindi ci sono delle condizioni di accidenti dispersi in montagna, verso i quali insomma il soccorso non può intervenire per condizioni schiaccianti di impossibilità tecnica e meteorologica. Dunque il soccorso valuta nella maniera più competente possibile, perché sono i più competenti possibili, valuta nella maniera più competente possibile l'opportunità, la possibilità di un soccorso. Questo è, di questo si occupa, insomma, e se non sono competenti loro, nessuno. Questo è, e questo deve essere, dice lei, insomma, non c'è possibilità di evitare disgrazie, no. È stata una disgrazia, non c'entra nulla l'imprudenza dei turisti o degli alpinisti, come vogliamo chiamarli. Questo è il suo giudizio, De Luca, in sintesi. Ecco, sì. Io vorrei chiedere ora allo storico dell'alpinismo oggi presente con noi, lei ha parlato di questa sorta di dicotomia, di doppia faccia dell'alpinismo: da una parte la follia inevitabile e da una parte il romanticismo, l'eroismo, la voglia di sfidare questa montagna. Ma abbiamo sentito poi Guido Bertolaso, capo della Protezione Civile, dire: attenzione, basta perdere la vita dei nostri ragazzi, riferito ai soccorritori, per l'imprudenza, per gli errori altrui, basta con queste cose. È la prima volta che in ambito politico in Italia si sente un appello di questo genere. È uno sfogo comprensibile questo nella immediatezza del dramma, tuttavia non è certo una novità. Pensiamo che una cinquantina d'anni fa, proprio in questi giorni, sotto Natale, c'è stato un incidente sul Monte Bianco memorabile, rimasto storico, il dramma di Henri e Vincent Don, due giovani che si erano tentavano un invernale. L'episodio è anche famoso perché in quell'incidente fu coinvolto il già famoso alpinista Walter Bonatti, insieme ad un alpino, un capitano degli alpini che si chiamava Gieser, credo sia ancora vivente, che ebbe poi delle amputazioni, eccetera, mentre i due giovani, il belga e il francese, morirono dopo un calvario di moltissimi giorni in cui furono visti bloccati presso la vetta del Monte Bianco. Bene, in quell'occasione ci fu un uomo politico che sarebbe diventato famoso, che si chiama Enrico Berlinguer, che per il Partito Comunista presentò un progetto di legge, fece in qualche modo un intervento politico per regolamentare l'alpinismo. Questo tipo di tentativi... Berlinguer, cioè in che modo, che intervento politico? Fece un intervento in Parlamento, credo un'interrogazione, con il proposito di vietare, di disciplinare questa cosa. È riportato sui giornali nei giorni del Natale del 57. E quindi quando ho sentito questa cosa di Bertolaso mi sono ricordato di questo precedente di Berlinguer. Ma se vogliamo risalire ancora prima, dobbiamo tenere presente che l'alpinismo è un'invenzione contemporanea. In che senso? La pratica dell'alpinismo risale grosso modo a metà Ottocento, e già da metà Ottocento c'era la consapevolezza in chi lo praticava di dedicarsi ad un qualche cosa di folle. Addirittura c'è Viollet le Duc, il famoso architetto restauratore, che parla del tavolo verde, di quelli che hanno la febbre del gioco, di quelli che si rovinano praticando un'attività molto pericolosa come quella del giocarsi la vita. Ma lei sta assimilando le due attività? Ci sono delle affinità, sicuramente ci sono delle affinità, e ci sono delle ragioni storiche per cui l'alpinismo è stato legittimato. Prevalentemente esatto. Sono delle ragioni nazionaliste e patriottiche che giustificavano in qualche modo la pratica dell'alpinismo, perché si associava, la si è sempre associata, soprattutto in passato, a delle virtù ammirate. Lo spirito di sacrificio, la lotta per la conquista. Cioè c'è una percezione ben diversa tra il gioco d'azzardo, anche se l'elemento dell'azzardo si trova anche nell'alpinismo, e colui o colei che affronta una vetta o semplicemente un'escursione in alta montagna. Come c'è una percezione ben diversa tra chi si toglie la vita con la droga, per esempio, e chi muore in montagna. E forse anche per questo ha suscitato questo clamore, questo intervento di Guido Bertolaso, dando voce anche agli ascoltatori. Non si può far rischiare la vita agli altri, ci segnala Anna di Firenze. Poi c'è chi dice che far pagare i soccorsi sarebbe un buon deterrente, vedi gli Stati Uniti, ma non solo loro, per escursioni particolari, dice poi da Vicenza Roberto, dovrebbe esserci l'obbligo di un accompagnatore specializzato. E i due gitanti non erano invece alpinisti esperti, ci segnala qualcuno che forse ha perso il nostro intervento in proposito. Per completezza di informazione, dice, si dovrebbe sapere, infatti l'abbiamo segnalato. Vi abbiamo chiesto, bisognerebbe dunque vietare gli sport estremi, gli sport a rischio, un sondaggio a cui votare sul sito di Radio 24, ovviamente una provocazione. C'è chi, come Harry De Luca, dice impossibile mettere un preservativo alla montagna. Già in passato qualcuno ci ha provato con una patente, con regolamentazioni, ma senza dubbio l'educazione alla montagna è molto importante. Valerio Zani, voglio concludere questa trasmissione con lei, che oggi parteciperà poi di fatto, tornando alla realtà e non alle digressioni, ai funerali di questi suoi amici. È stato detto, no, è impossibile giudicare il comportamento di chi si trova in una situazione di rischio. Noi partiamo, noi soccorriamo comunque. Lei l'ha fatto in passato e lo rifarà, immagino, Zani. Assolutamente sì. Cioè, il soccorso alpino ribadisce anche in questa occasione che da parte sua non farà mai operazione di giudizio, cioè non giudicherà mai chi ha fatto un certo tipo di cosa, ma bensì al contrario continuerà a fare soccorso. Questo grazie. Ovviamente. Grazie Zani, la conclusione migliore è drammatica, se vogliamo, ma è senza dubbio in linea con quello che è la filosofia del soccorritore. 8:59 da Irene Zerbini, appuntamento a domani, ora le news.